Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti e ricomincia la stagione rock, la stagione da settembre cominciamo a Rock Wave. È una bella cosa. Buonasera Massimo e buonasera Diego. Buonasera a te. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio, sì, sicuramente. Ottimo, ci siamo anche fermati a mangiare. Bene, bene, questo è importante. Benissimo, perché abbiamo Massimo e Diego stasera? Perché dobbiamo parlare di un progetto vostro, si chiama Corde e Martelli. Corde esatto. Da chitarra e martelli da pianoforte, chiaramente. Esatto. Come nasce, come si è sviluppato tutto questo discorso? Ma in realtà noi abbiamo collaborato, ormai sono tanti anni che ci conosciamo, che siamo anche molto amici, devo dire, il che aiuta in un progetto. Abbiamo lavorato a progetti altrui, a progetti nostri, già da diversi anni, finché poi abbiamo deciso di fare una cosa delle nostre composizioni, insomma. Infatti in questo disco ci sono delle cose addirittura composte a quattro mani, altre solo mie, altre solo sue. E niente, insomma, abbiamo realizzato questo disco. Ma l'idea si è sviluppata sui palcoscenici d'Italia oppure no? Sì, più o meno, in qualche modo sì. Noi abbiamo lavorato assieme con cantautori, poi con gli stessi cantautori in tempi diversi. Ripeto, ci conosciamo appunto da tanti anni, siamo molto amici e abbiamo deciso di, così un po' per scherzo, ci siamo visti diversi anni fa, abbiamo messo insieme delle idee e poi dopo ci siamo risentiti e abbiamo detto ma perché non la facciamo questa cosa, abbiamo deciso di farla. Ecco, una parte la tua cultura delle chitarre, il tuo cercare gli strumenti anche etnici, come mai Massimo? Ma questo lo faccio in realtà non in questo progetto. No, questo progetto no, però... Esatto. Sì, ma da sempre, insomma, lo strumento a corde mi ha sempre affascinato, poi sono un appassionato, approfondito, strumentini di varia fattura, insomma, mi appassiona l'idea di mettere le mani sulle corde. Lui invece è proprio Diego, un pianista puro. La sperimentazione quasi jazzata all'inizio, come mai Diego? Sì, perché io arrivo comunque da un percorso iniziale comunque che è stato molto vicino, cioè è stato di tipo jazzistico. Sì. Che poi ho lasciato per diversi anni perché poi insomma la vita professionale e anche le scelte ti portano poi in altre direzioni, però comunque diciamo che è un tipo di linguaggio e di cultura musicale che comunque è rimasto sempre comunque attaccato a me e indubbiamente anche nel lavoro che abbiamo fatto insieme io e Massimo alcune piccole strutture, un tipo di linguaggio che deriva da quel mondo si sente, ecco. Certo, certo. È venuto molto naturale senza neanche cercarlo, insomma. Gli strumenti etnici in questo progetto non si sentono, ma il classico, il jazz si sente e anche la tua voglia di rivisitare i pezzi cantautorali, tra virgolette, si sente. Sì, c'è stata questa idea di inserire un paio di cover dei due cantautori che ahimè non sono più tra noi, che hanno rappresentato un po' questo paese, che sono Lucio Battisti e Fabrizio De André. Certamente. E abbiamo rivisitato questi due pezzi che sono appunto Non è Francesca di Battisti, rivisitata anche dal punto di vista armonico. Sì, molto armonico, secondo me. Abbiamo cambiato la struttura e invece addirittura nella canzone di Marinella ci siamo divertiti a cambiarne il tempo, è diventata in vero. 5 quarti. E sì, è stato un divertimento, ma in realtà... il nostro intento, almeno penso di Diego. Di Diego era quello di dire delle cose nostre. Insomma. Sì, assolutamente. Sono tanti anni che lavoriamo in questo ambiente, volevamo dire timidamente la nostra. Sì, assolutamente vostre. Al di là della rivisitazione del pezzo di Battisti e del pezzo di De André, all'inizio, visto che dobbiamo aprire la finestra, dobbiamo iniziare, c'è un sapore di jazz, secondo me, nel brano iniziale. Io l'ho sentito così quando l'ho ascoltato. Non so se siete d'accordo, visto che siete qua e dobbiamo allargare gli orizzonti. Cosa dici, Diego? Ma guarda, secondo me il brano iniziale, che devo dire di Massimo, sono molto invidioso di questo. È suo, però io ho sentito un po' di jazz, no, come mai? Ma perché io invidiosissimo, allora ho cercato di metterci del mio più possibile. Metto un po' del tuo, capito? Io pensavo che fosse scritto da te. No, infatti volevo firmarlo io, perché uno dei pezzi che mi piaceva di più, lui non me l'ha permesso, allora ho detto vabbè, perlomeno lo suono come voglio io, allora ci ho messo dentro un po' di cose. No, devo dire un brano a cui sono molto affezionato e che ho voluto molto che Massimo mettesse nel disco e che lo rivisitassimo insieme, insomma. Ma l'idea di fare questo, per esempio, questo pezzo è nata sugli palcoscenici, avete detto, ma come si è sviluppata il testo, cioè il pezzo, come l'avete scritto? Era già noi pronto? Abbiamo modo di lavorare, dimmi. Secondo me è molto bello, poi io non so tutti i nostri colleghi come lavorino quando, quando si lavora a quattro mani. Però noi o arriva uno con un'idea ben strutturata, nella quale ovviamente l'altro mette tantissimo, certo, questo è il sapore del lavoro, oppure addirittura quando si lavora a quattro mani si lavora della serie, beh io mi fermo qui, vai avanti tu adesso, ah, che è una cosa bellissima, e l'abbiamo fatto in anche brani che non sono contenuti in quest'album, che certo, abbiamo nel cassetto, che speriamo di poterlo realizzare in futuro. Si ritrova proprio le parti, perché ha perso delle parti tue, adesso dico anche questa cosa. Con questo spirito, proprio carta alla mano, io sono arrivato qui, ho queste idee, adesso vai avanti tu, ripeto, ci tengo a questa cosa perché trovo che sia importante. Noi siamo anche amici nella vita, e quindi che non è così comune. No, esatto, ma è importante essere amici anche nella vita, per però sviluppare sì, è importante, è fondamentale. Poi abbiamo questo gioco che non ci prendiamo mai sul serio, che io trovo che sia una cosa sana e saggia, e quindi insomma si lavora bene. Addirittura diversi anni fa siamo andati, lui ha una, perché lui è molto ricco, ha una casa, ah, perfetto, ha una casa in affitto in realtà sul mare, e mi ha invitato, siamo stati 3 giorni, abbiamo fatto una full immersion, è stata un'esperienza bellissima per entrare, soprattutto per me che ero ospite, penso anche per lui, e infatti non l'ho più invitato, non mi ha più invitato da allora. Piano, chitarra e bevute, insomma, e mangiate. E bevute, è proprio, chiude il cerchio. Esatto. Ok, apriamo il cerchio, cioè apriamo la finestra col primo pezzo che si chiama Versi liberi, esattamente. Abbiamo già estrapolato il motivo, come è nato, come si è sviluppato. Lo sentiamo e poi possiamo parlarne ancora. Ringraziamo il nostro staff, Michele Tosò, il mitico Michele in regia. Grazie. Roberto Badi che ha curato le telecamere, il nostro direttore artistico che è Michele e Alberto Prisco, e la redazione femminile che non viene mai ma dovrebbe venire, le 3 ragazze, la Simonetta, la Patrizia e la Silvia, che bene o male ci danno una mano. E partiamo con questo primo pezzo del duo Massimo Gervini e Diego Baiardi, ovvero sia Corde e Martelli. Thank you. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Versi liberi. C'è una. È un titolo significativo. Versi in libertà totale. Abbiamo detto anche un po' di latinoamericano, giustamente avete detto. Però liberi, libertà di sviluppare, di allargare, di coinvolgere, secondo me. Cosa dite? Sì, è un po' questo. Poi c'è un leitmotiv che non è che sia facilissimo da cogliere, che un po' si evince dai titoli che poi, di cui poi parleremo. C'è un po' in questo disco una voglia di libertà, una voglia anche... come dire, di non riconoscersi in quello che sta accadendo a questo paese adesso, in particolare, di questi tempi, questa perplessità riguardo a quello che sta accadendo, a quello che ci aspetta, a quello che aspetta i nostri figli, purtroppo, e anche il fatto che noi apparteniamo un po' a una generazione di mezzo, insomma, della cosiddetta mezza età, per cui di aver visto delle cose e di non rivederle più. C'è un po' questa cosa, versi liberi, un po' questa voglia di libertà, che poi c'è A volo d'ombrello, che è un titolo che appunto richiama anche quello, la voglia di libertà, si rifà poi a una favola di questo bambino che apre l'ombrello e in questo modo vola, e così poi altre cose di cui parleremo man mano. Sì, musica prettamente strumentale, ricordavamo con Massimo a microfono spenti, che sono terza in circa 5 anni di Rock Wave, circa 400-300 musicisti che sono venuti a suonare, abbiamo avuto solo 3 o 4 persone che hanno suonato strumentale. Quindi non è semplice suonare strumentale in una radio, ma è bello, significativo, perché esplora determinati orizzonti che la voce, musica è voce in ogni caso, però la voce cantare forse leggermente distoglie in alcuni momenti, non so se siete d'accordo. Ma guarda, credo che siano degli aspetti panoramici completamente diversi, ma io non credo che sia tanto nella questione, cioè a parte che anche l'uso della voce noi la conosciamo essenzialmente nella maggior parte dei casi utilizzata in un modo univoco, che c'è, che è l'intonazione di una melodia abbinata a delle parole, no? Ed è chiaro che comunque questo è l'aspetto comunicativo che è più divulgato, comunque, certo, che è più semplice anche da fruire, perché comunque abbinato alla musica noi sentiamo un testo che ci sentiamo essere più vicino, più lontano, appartenerci o non appartenerci. La musica strumentale in teoria si dice magari è più di nicchia, no? Sì. Però anche qua secondo me si tratta comunque di una sorta di, come dire, di voglia e di potere e di capacità e di tentativi di poter esprimere comunque dei sentimenti, delle esigenze, delle emozioni, passando attraverso un altro filtro che non è quello delle corde vocali. Chiaro. E chiaramente manca un aspetto fondamentale di cui Massimo è un grande esperto, io invece sono molto meno avvezzo, no, all'aspetto testuale, che è il testo comunque. Ed è chiaro, una grossa sfida è stata comunque anche pensare di poter vestire la canzone di Marinella e Non è Francesca senza il testo. Eh sì. Cioè comunque abbiamo dovuto essere convinti il doppio che per le altre cose di metterli, perché quando svesti le canzoni di due testi così importanti è chiaro che devi esserne convinto fino in fondo, perché togli una cosa piuttosto importante. Io posso azzardare questo. Non è Francesca è secondo me più semplice. Perché si adatta anche musicalmente a determinate evoluzioni. Cioè, sì, la melodia è più... Esattamente, si adatta alla costruzione armonica, alla costruzione strumentale, può allargare. La canzone di Marinella è più statica, a mio parere, è più difficile, secondo me. Guarda, la canzone di Marinella, scusa Massimo, siccome ne riparleremo a qui tra breve, perché questo pezzo probabilmente mi seguirà, spero, dandomi buona fortuna, perché anche nell'altro disco che io ho fatto... A mio nome c'è la canzone di Marinella, riarrangiata in un modo diverso da come l'abbiamo arrangiato io e Massimo. E io non lo so, però per quanto mi riguarda, anche se non sono proprio un cultore della musica d'autore italiana, l'ho conosciuta, la conosco, ma non so. Cioè, è un tema che secondo me è di una semplicità e di un'immediatezza tale che mi affascina tantissimo, soprattutto perché può essere, come dire, trattato sotto il punto di vista dell'arrangiamento, proprio perché è così semplice, in un modo molto largo, o come abbiamo fatto io e Massimo col tempo, oppure per esempio come ho fatto in un'altra occasione utilizzando il vibrafono, insomma, non lo so, a me è venuto particolarmente spontaneo affrontare questo brano. E se non c'è la canzone di Marinella, De André faceva l'avvocato praticamente. Grazie a Mina, lo ha detto lui. Era cantata Mina, sì. Esattamente, se no, perché non era, era sconosciuto. Cantata da Mina è diventato conosciuto. Vabbè, questa è una... Sì, comunque al potere della semplicità. Poi, sì, insomma. Certo, certo, benissimo. Avete suonato con parecchia gente, tu in epoche un po' lontane con Vecchioni, tu in epoca recente con Vecchioni. Com'è come musicista Vecchioni sul palco? Proviamo prima il Massimo e poi a Diego. Com'è come musicista? Cioè, come, beh, sai, lì si aprirebbe un file, come si dice file, oggi, lunghissimo, forse non è il tempo, forse non è neanche la sede. È un altro modo di essere musicisti. Ah, c'è un musicologo che io stimo moltissimo, che si chiama Franco Fabbri, che ha fatto un libro, Stormy Six, su, esatto, bravissimo, che è diventato, a proposito di Rocky di ieri, vedo che tu sei ferratissimo, è diventato un musicologo che io stimo tantissimo, di cui ho letto diversi libri. E lui ha scritto un libro in particolare su De André, però c'è una diatriba antica riguardo ai cantautori e alla canzone d'autore, che in realtà non sono, nessuno di loro è musicista nel senso letterario del termine, anche perché banalmente non è in grado di scrivere la musica, di metterla su carta, ma è un dettaglio. Quindi sono musicisti che vanno studiati non come i musicologi studiano Mozart, ma bensì sentendo le loro cose attraverso l'interpretazione. Poi la semantica è completamente diversa, perché lì nella canzone d'autore ci sono i tre elementi che sono appunto la musica, le parole che sono fondamentali e l'interpretazione. Certo, certo. Vecchioni, che dire, a parte che siamo amici, lavoriamo da 10 anni assieme, ma è un grandissimo affabulatore, uno straordinario cesellatore di parole, però non è propriamente un musicista nel senso letterario. Lui si serve della melodia per trasmettere questi testi meravigliosi. E in questo modo anche scrivendo delle canzoni meravigliose, anche delle melodie molto belle, di spirito popolare, popular, però popular, esatto, sì, con tutto il rispetto, insomma, certo, certo, chapeau, come si dice. Però i musicisti è un'altra cosa, un altro settore, che non per questo migliore, diverso, chiaro. Un'altra cosa. Sei d'accordo, Diego, su questo? Sì, assolutamente. Lui ha fatto una disamina che più precisa di questa non si potrebbe, io ti posso soltanto dire che è stata la mia prima esperienza importante, arrivata quasi per caso attraverso un provino quando avevo 24 anni, per cui si parla di più di 20 anni fa. E io allora non stavo neanche, cioè poi io arrivavo veramente dal jazz, no? Per cui mi sono trovato a fare un provino per Vecchioni. La cosa simpatica che mi ricordo è che quando sono arrivato, che mi avevano preso, no? In mezzo a questa band, invece, dove c'era gente più anziana di me, no? Io arrivavo lì e suonavo Luci a San Siro, cercando di far vedere tutto il virtuosismo possibile e immaginabile, e mi dicevano: guarda, no, aspetta, no, non è così la storia. Devi cercare di... E ho imparato moltissimo. E poi soprattutto quando ti trovi a quell'età lì, con un personaggio del genere, con un carisma del genere, a fare dei grandi teatri, voglio dire, già questo in sé è un'esperienza incredibile, insomma. Ok, benissimo. Continuiamo ad allargare l'orizzonte, parliamo del secondo pezzo della scaletta, che si intitola, A metà dell'orizzonte. Lo vuoi spiegare un momentino adesso? Dunque, questo prima, il pezzo che abbiamo appena sentito era mio, questo invece è interamente di Diego. Di Diego. È un bellissimo pezzo, secondo me, con un sapore West Coast, esattamente, versi. West Coastiano. Sì. Molto bello, molto interessante, e proprio per tributarlo ho deciso di introdurlo io, infatti c'è una intro di chitarra, a metà dell'orizzonte, perché immagino a questo punto anche Diego pensasse un po' quello che pensiamo noi in questo album, cioè questa sorta di incertezza che la vita ci sta dando in questo momento storico. Sì. Penso che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, sì. Insomma, sì. Al di là di come uno la pensi, certo, singolarmente. Certo. No, qua c'è anche un riferimento, devo dire, molto più anche oltre che questo, di significato, anche proprio di visuale, nel senso che comunque questo l'ho scritto in questa famosa casetta al mare, dove Massimo, quella famosa, esatto, da cui che era in affitto, è tuttora, però in questo splendido posto che è le Cinque Terre, a cui è dedicato poi tra l'altro il mio disco, quello di cui si parlerà tra un po' di tempo, certo. E lì proprio, cioè, è anche abbastanza spontaneo, cioè, guardo fuori dalla finestra, lo vedo, no? E l'orizzonte lì, no? Quindi insomma si sono collegati un po' un significato intrinseco, comunque, diciamo, di ricerca proprio di significato più profondo, e un po' un aspetto visivo, insomma. Ok, benissimo. Sentiamo insieme allora adesso. Mm-hmm. radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ci potete sentire e vedere diretta a rockway.altervista.org. Leggevo nei credits di Massimo e di Diego, hanno suonato con un sacco di musicisti, svariati musicisti nell'ambito pop e non solamente nell'ambito pop. Però l'input è partito da Gian Gilberto Monti. Chi è Gian Gilberto Monti? Lo vediamo perché è un grande amico. È un grande cantautore. È un carissimo amico. Bravissimo artista. Amico, perché lo dico per prima cosa perché comunque ha un grosso significato per noi. Perché innanzitutto è la persona che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto salire su un palco. Artisticamente sì. Umanamente sì. No, ma artisticamente sì. E quindi gli vogliamo un gran bene, abbiamo una grandissima stima nei suoi confronti. E ci siamo conosciuti attraverso di lui e anche lì, cioè, alla fine abbiamo avuto poche occasioni di lavorare insieme, anche perché noi scherziamo sempre sul fatto che secondo noi Gian Gilberto ci teme un po' insieme. Ah, ho capito. Dice sono troppo difficili da sopportare insieme, ma sicuramente arriverà l'occasione in cui lo faremo comunque. Ricordiamo che Gian Gilberto è un ottimo chansonnier, possiamo dire così, molto più amato in Francia che non in Italia. Sì, poi ha tradotto diverse cose dal francese. Esattamente. Sì, infatti, io ho fatto Boris Vian, lui poi anche le cose su Gainsbourg. Certo. E Massimo altre cose. Noi abbiamo fatto curiosamente due dischi consecutivi di Gian Gilberto, di cui uno arrangiato da lui e uno arrangiato da me. Quindi uno più pianistico e uno più chitarristico. E in entrambi ci siamo reciprocamente chiamati, perché lui ha chiamato me per suonare la chitarra e io ho chiamato lui per suonare la chitarra. Faccio questa domanda, parlando di Gian Gilberto, vi dà la possibilità di allargare mentre suonate? Cioè, non dico di improvvisare, ma cercare di costruire un piccolo spazio vostro nei suoi concerti oppure live? Sicuramente sì. Ma poi devo dire che Gian Gilberto in particolare, ma un po' tutti gli artisti con cui ho lavorato e penso anche Diego sicuramente, sai, chi fa questo genere di musica, escludendo la musica classica dove hai degli obbligati, che più obbligati di così non si può, è chiaro che noi si improvvisa continuamente. Poi il jazz è l'improvvisazione per definizione, ma anche facendo pop ci sono, ogni sera il pezzo lo fai in maniera un pochino diversa, insomma, cioè un po' il fascino di questo mestiere. Ma live deve essere così. Ci si mette del proprio tantissimo, insomma. Certo, che live è proprio per antonomasia. Mentre la musica classica tutti sanno, è un tutt'altro mondo, insomma. Cioè, chi preferisce però il live molto vicino al disco, ma non è possibile o no? È quasi impossibile fare tanto vicino al disco. Sì, o poi soprattutto a quel punto uno si prende il disco. Infatti, proprio con Vecchioni parlavamo in questi giorni di questa cosa, che io dicevo che negli anni 70, anche tu suppongo, visto, negli anni 70 si andava a vedere i cantautori quasi più per quello che avevano da dire che per quello che avevano da far sentire. Certo, sono era importante l'aspetto, il fatto che molti di loro fossero appunto dei metrapensè di quegli anni. E sta un po' ritornando questa cosa, il concerto sta diventando sempre più reading, sempre più letture di cose, di poesie, di affabulazione, come fa Vecchione, come fa Caballà, che è un altro cantautore con cui lavoro. Non è più solo musica, anche perché ormai i dischi, ahimè, si vendono pochissimo, quasi niente. Il live è l'unica cosa che per forza dovrà resistere, per cui devono essere sempre più interessanti, accattivanti, in modo che uno esca di casa e non vada ad ascoltare il disco che è a casa eseguito su un palco, bensì delle altre cose. A proprio di Caballà, tu hai citato Caballà, io ho due CD suoi a casa. Ma tu c'hai tutto, non so che ho tutto, però a me piaceva particolarmente anche e te lo porterò qua, adesso se siamo domani siamo a Orvieto, guarda. Bene. Poi andiamo in Sicilia per 5 date. È una buona cosa, una buona cosa. Benissimo, allora abbiamo parlato di Gian Gilberto Monti, questo input, questa freccia. Tra parentesi, anche lui ha lavorato con Caballà. Ecco, anche lui. Vi siete scambiati partner musicali? Perché noi appena possiamo ci amiamo, per cui ci chiamiamo. No, ma c'è stata una cosa bellissima che abbiamo fatto l'anno scorso a Catania, no, invece mi sono contento di poterne parlare, me l'ha sfuggita, che abbiamo fatto praticamente corde e martelli che accompagnano a Caballà. Abbiamo fatto un bellissimo concerto alle Ciminiere di Catania, dove lui ci ha permesso di fare tre pezzi di quest'album, insomma, live. È stato tanto benissimo. Sì, poi un'atmosfera incredibile. Un'atmosfera bellissima. Purtroppo poi non ci sono state più altre occasioni, ce ne saranno in futuro, spero. Ma ci saranno in futuro occasioni per corde e martelli? Speriamo. Perché è difficile, secondo voi? Sì. È difficile. Perché è difficile, Diego? E qui la parentesi si potrebbe allargare. Se apro, cioè puoi decidere se la apro o non la apro. Ma qui possiamo aprire. Apriamo. Ma perché allora, cioè, secondo me c'è un principio base che funziona. Allora, vabbè, i dischi non si vendono, è già questo in default. Però la grossa problematica di un disco come questo è che se comunque non hai un ufficio stampa alle spalle che fa conoscere questo disco, noi abbiamo il privilegio, l'onore e il piacere del fatto che siamo da voi, è la prima trasmissione radiofonica che facciamo, la prima partecipazione in cui c'è qualcuno che dà spazio e fa conoscere a qualcuno questa idea. Perché noi possiamo aver fatto il disco più bello o più brutto del mondo, ma nessuno potrà apprezzarlo e nessuno potrà criticarlo se nessuno sa che esiste. Certo. E questo è tutto. Quindi alla fine, purtroppo, visto che non esiste più la figura della produzione artistica di una volta, in cui c'erano discografici che potevano, che credevano e potevano anche magari permettersi di poter spingere su un progetto, qui diventa tutto un fai da te, ed è chiaro che lì subentrano tante cose, cioè se non hai nessuno che si occupa di te, va a far conoscere nelle radio, la cosa è presto fatta, no? Cioè, anche difficile, io preferirei subire tante critiche, però certo. Sapere che c'è gente che lo ascolta, no? Ma purtroppo adesso siamo su questa, difatti tanti gruppi hanno deciso di fare da soli, perché gruppi, se parliamo di Radiohead è una cosa, sono stati i primi, eccetera, però hanno cominciato, esatto, quello è esatto. Radiohead avevano alle spalle, sappiamo cosa, però hanno cominciato. Però comunque è stata una mossa secondo me molto intelligente quella loro, perché comunque è stato un segnale molto forte, che poi le case discografiche sapranno interpretarlo o meno, questo non lo so, però il tipo di segnale che hanno dato è stato un segnale molto positivo, anche se hanno detto è stato un flop, però è stato un flop. In ogni caso Prince ha venduto i dischi col giornale, per esempio, America, a Londra, in Inghilterra, ma pare che anche qui in Italia sia forse uno dei veicoli in cui si vende. Ma l'ha fatto anche Dalla in edicola. Massimo l'ha fatto. L'hai fatto anche te? 12 anni fa. Ecco, no, 13 anni fa. Hai fatto anche andò te. Anche molto bene, no? Una rivista, però di settore, New Age, si chiamava Essere, che non c'è neanche più. E il mio disco, che si chiamava Fuoco, uscì allegato alla rivista. Quindi è positivo, cioè una via che si potrebbe continuare a fare. Ma non lo so, è difficile, perché qua si potrebbe dire tutto il contrario di tutto. Comunque sono assolutamente d'accordo con Diego, e poi il fatto che non esistano i produttori è un po' il gatto che si morde la coda, perché siccome non si vendono più i dischi, non è più un affare questo lavoro, per cui non esistono più neanche gli addetti al lavoro. Però i concerti, c'è un ritorno ai concerti. Dicono. Noi abbiamo un produttore, no, adesso perché è detto così, sembra che non ce l'abbiamo. Sì, no, noi ringraziamo Fausto Dasè che ci ha portato questo disco. Il produttore l'avete voi. Parlo del produttore in senso più ampio, no? C'è quello che può chiaramente anche pilotare poi la promozione del disco, no? Cioè, noi già abbiamo avuto una fortuna, e credo anche lui abbia avuto la sua fortuna davvero, noi c'è una fortuna reciproca nel poter collaborare in questa cosa. Chiaramente poi la produzione, la promozione comporterebbe poi la promozione, che invece è la parte più difficile, insomma, no? Cioè, okay. La fortuna di averlo potuto realizzare poi. Certo. Siamo pronti allora? Sì, oh, oddio. Dobbiamo dire una cosa. Esatto, c'è qualche problemino tecnico. Sì, quindi. Esattamente, stavolta allora, col piano. Adesso eseguiremo un brano live. Se riusciamo. Allora, io adesso non è che voglio trovare scuse, infatti non ne troverò. Cioè, siccome un po', diciamo, dopo i 40, un po' qualche celluletta se ne va per i cavoli suoi, io ho dimenticato una cosa che nessuno sa cos'è, ma forse lo sanno soltanto quelli che suonano le tastiere, che si chiama pedale del sustain, che è quello che fa sì che quando tu suoni delle note, e anche se le lasci, queste continuano a suonare. Non ce l'ho. Quindi la prestazione, senza voler trovare troppe scuse, io non so cosa riuscirò a quindi fare. Quindi se adesso. Viene una schifezza è colpa sua. È solo colpa mia, in questo caso mi devo beccare io la colpa. E suoniamo, la presenta Massimo, che è un nostro questo pezzo. Si chiama Le radici delle ombre, è un pezzo, appunto, prima abbiamo presentato un pezzo mio, poi un pezzo suo, e questo finalmente è un pezzo proprio realizzato a quattro mani, sullo spirito di cui parlavo. È un pezzo che ci chiama, cioè che ci piace definirlo, anche perché qualche amico l'ha definito così, un po' cinematografico. Qua non abbiamo soli, quindi non abbiamo esposizione così, diciamo, virtuosismi, tra virgolette, proprio un'esposizione di un tema semplice, il più semplice, il più volutamente semplice possibile, e spero che piaccia. Soprattutto spero che venga senza il pedalino. Pedale o di dito, vai. Mm-hmm. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ok. No. Sì, lo so, però è venuto benissimo. Lo so. È venuto benissimo. È molto difficile senza, però allora sperando che sia arrivato il senso del... Yes. No, è arrivato tutto il senso. Va bene. Siamo in onda. Non siamo in onda. No, sì, sì, siamo in onda. Okay. Siamo in onda. Siamo in onda. Siamo in onda. Siamo in onda. Siamo in onda. Ah, benissimo. Meno male che lo abbiamo letto. Perché non l'avevo capito. No, vabbè, tutti i commenti tecnici pedali. Sì, vabbè, comunque, cioè, insomma, siamo tra amici. Cioè, esattamente. Poi siete stati... Cioè, Diego è stato molto bravo. Giustamente hai detto, tecnicamente, cioè non avendo il pedale o hai... No, perché va bene, insomma, detto in soldoni, no? Se io faccio così e rilascio, no? Cioè questa nota chiaramente si stoppa, no? Io invece il pedale fa in modo che questo effetto di risonanza vada avanti. E quindi posso catturare, tra virgolette, gli armonici di tutte le note che suono, così invece spariscono immediatamente. Esatto. No, devo dire, a onor del vero, che Diego è veramente stato bravissimo, perché è molto difficile suonare senza pedale. Certo, certo, sono perfettamente d'accordo. Parliamo di questo pezzo, posso dire onirico? C'è un po' di atmosfera, no? Sì, io, anche dal titolo, insomma, sì, le radici delle ombre, che è un po' un ossimoro. Sì, ci piaceva questa cosa qua di questa impalpabilità della vita, poi, adesso non vorrei fare grossi discorsi. Forse dovremmo essere un pochino meno seri. Adesso io sparerei un po' l'azzardato, un po' psichedelico, posso dirlo. Sì, sì. Beh, questo per esempio è nato proprio in modo molto psichedelico, perché ecco, questo è proprio... Sono quelle cose che diceva prima Massimo, no? Che in modo, cioè, tipo mi ha detto: senti, io ce l'ho fin qui il pezzo, no? Esatto. Però secondo me questo è uno di quei classici pezzi. Massimo, secondo me, in questo ha proprio un tipo di scrittura di una grandissima efficacia nella semplicità, no? Ma semplicità, quando vuol dire sinonimo comunque di grande arte, cioè, ti voglio bene, cioè. No, però, cioè, sono alla fine, se conti le note, non credo che ce ne siano più nel tema più di 6. Adesso posso andare un attimo a occhio, no? Certo. Però questa tessitura di questo che viene chiamato in gergo pedale, no? Di questo ripetuto. Capito? Che si muove nell'arco, cioè dà secondo me una grande atmosfera. Poi invece io ho fatto la parte, diciamo, la parte, l'inciso, sì, quello dove appare in maggiore. E non so, ci piace. Ah, beh, era molto sì, bello. Siamo possiamo dirlo, siamo orgogliosi di questo pezzo. Contenti. Poi magari è quello che colpisce meno, sì, però esatto. Siamo orgogliosi. No, era molto bello, molto significativo. Leggendo nel tuo disco, Massimo, hai suonato con Lucio Violino Fabbri. Suono tuttora. Lucio Violino Fabbri. Riparlando di Claudio Rocchi, mi è venuto in mente Lucio Violino Fabbri. Sì, è un carissimo amico. Ci suono da credo 15 anni ormai. Se non di più, sì, l'abbiamo suonato proprio recentissimamente. È una cosa curiosa, perché si fanno queste cose con Vecchioni al matrimonio del cognato di Vecchioni. Ah, perfetto, una cosa simpatica così. Ma questo giro di musicisti, Diego, te, questi musicisti milanesi, ieri sera con Rocchi si parlava di questa vicinanza, di questa comunione di musicisti milanesi, che bene o male si ritrovano sempre tutti, non sempre, però in determinati momenti dell'arco del tempo della ma carriera. Guarda, Milano secondo me ha questa poi, anche potrà... se Diego è di Vercelli, però vuol dire. Sì, però vabbè, insomma, però ormai è milanese d'adozione. Ormai è d'adozione. I milanesi hanno questa particolarità, allora pochi sanno in realtà che Milano è la città italiana che ha subito tra virgolette, non in senso negativo, però insomma, la prima immigrazione degli italiani stessi, perché esiste una prima immigrazione che risale al periodo tra le due guerre, siamo negli anni 20. Per esempio, basti pensare che Iannacci, figlio di Pugliesi, sì, è nato nel 35 a Milano. Certo. Quindi figlio di Pugliesi, però già residente a Milano. E quindi Milano ha una storia di accoglienza la più antica d'Italia, perché la stessa Torino l'ha vissuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, anzi negli anni 50, negli anni 60. E quindi è stata vissuta in maniera diversa, in effetti. Milano è una città che piaccia, ripeto, non piaccia, molto accogliente, e poi devo dire che è stata, adesso purtroppo coi tempi che corrono, ma è stata la città della musica. Battisti viveva a Milano, certo. Insomma, cioè tutti nella camera di offerta esatto. Da quello di Dick Dick. È inutile che lo dica a te perché sai sì, tutto. Sì, perché quando abbiamo intervistato appunto Pietruccio, ha detto che la mamma di Pietruccio gli faceva la minestra, la pasta asciutta a Battisti, quindi l'associazione De André della carissima Dori Ghezzi, peraltro nata all'Entate sul Seveso, a pochi chilometri certo. Da Milano, è a Milano. Mentre Roma è il cinema, Milano è la musica, e lo è tuttora, anche se sta morendo tutto, quindi sta morendo anche ma ci sono dei nuovi talenti che a Milano sviluppano gli after hours. Comunque sì, diciamo che sono stati anni, noi siamo un pochino più giovani, perché Lucio era il più giovane di tutti, è del 55, e io sono del 62, quindi sono già suo fratello, tu sei molto giovane, suo fratello minore, diciamo, quindi arrivo dopo. Però in quegli anni, gli anni di appunto di Camerini, tu sai benissimo, Finardi, di Lucio era Lucio. Un fenomeno, perché suonava tanti strumenti, suonava il violino, insomma, e quindi se lo prendevano un po' tutti, e così è nata la... Diego è nato X Factor adesso. Siamo perdere. Diego parlava prima della voce, mi viene in mente Demetrio Stratos. Quando parlai della voce, sì, beh, ti viene in mente perché, per chiedermi che cosa ne penso. Sì, cosa ne pensi? Voce, perché voce ma come guarda, strumento. No, mi stai facendo una domanda che sembrerebbe quasi che tu mi abbia letto nel pensiero, perché uno dei progetti futuri, che io non lo so neanche Massimo. È una novità assoluta. Io ho avuto la fortuna di conoscere per varie vicissitudini questo cantante che è perso in quel di Fossano, che appartiene quindi alla mia regione, e che è stato chiamato niente proprio di meno che da Bobby McFerrin a collaborare con lui nel suo ultimo disco, ed è proprio un po' quello che viene. Massimo ci ha suonato indirettamente, perché progetto che dopo ce ne ho, perché ne facciamo parte, tanto per cambiare, io e Massimo e altri 12 musicisti italiani. Scatole cinesi proprio si aprono in continuazione. Sì, esatto, questa è una scatolona abbastanza grossa, e questa ve la do proprio quasi in anteprima perché non lo sa quasi nessuno. La posso annunciare perché è praticamente ufficiale la cosa. Adesso dico prima questa cosa su questo cantante e poi vi dico questa cosa. Bene. E si chiama Albert Hera. Molti non lo conoscono, perché comunque è un modo molto particolare di usare la voce, ed è, io l'ho sentito proprio, gli ho visto, tra l'altro mi ha mandato un suo video di tributo a Demetrio Stratos, e io ho in progetto di fare con altri 3 musicisti più lui un progetto che si chiamerà Color, in cui ogni musicista, lui compreso, suona 2 strumenti, perché lui suona, oltre che la voce, suona il sassofono, io suono pianoforte e tastiera, c'è un chitarrista che suona elettrico, insomma vabbè. E sarà un gruppo di cui non annuncio già adesso quali saranno, perché sarà un concept project, sarà una cosa proprio relativo a un determinato tipo di argomento che tratteremo, e lì la voce verrà trattata, siamo ancora in fase di elaborazione, però faremo pezzi nostri, ma faremo anche dei brani, delle cover in cui estrapoleremo, lui eseguirà con la voce soltanto i vocalizzi tematici, ma estrapoleremo soltanto la frase pregnante di un brano. Incredibile. E mi collego a questo per dire che invece a marzo io e Massimo, io l'ho avuto l'onore e la fortuna di aver avuto questa idea, e naturalmente ho subito chiamato lui, uscirà un grossissimo progetto che spero di poter venire a presentare. Certamente. Qui, che si chiamerà Bon Nuit, in cui io ho scelto 20 ninnananne provenienti da tutto il mondo, da ogni continente, e le ho riarrangiate insieme a, adesso spero di non dimenticare nessuno perché l'elenco è molto lungo, ci sono 5 cantanti che sono Patrizia Laquidara, Petra Magoni, Paola Folli, Cristina Zavalloni e Albert Hera. Ci sono dei solisti di grande importanza che sono Paolo Fresu e Antonello Salis. C'è la ritmica, che gli altri solisti sono Giulio Visibelli, c'è la ritmica che è composta da Stefano Bagnoli e Francesco Dauria, percussioni e batteria, Riccardo Fioravanti al basso, Massimo Germini alla chitarra, io pianoforte e tastiere, e adesso facendo i conti mi mancano tra i musicisti che purtroppo al momento, perché, e comunque c'è Tullio De Piscopo che ci ha offerto un suo brano, una propria Ninna Nanna. Stefano Mariani, che io cito sempre perché seppur essendo il fonico, io ritengo che i fonici quando sono bravi vadano citati, perché danno un contributo artistico alla riuscita fondamentale secondo me. E purtroppo credo che manchi uno, spero che non mi odi, ma francamente siamo in troppi, e uscirà questa cosa abbinata, niente proprio di meno, a un libro di disegni inediti di Guido Carepax, che noi abbiamo avuto in licenza perché il figlio è il mio collaboratore in questa cosa, per cui a marzo spero di poter venire qui proprio ancora con Massimo e probabilmente magari con Patrizia anche, che qua sì, della che zona, qui nella zona sì. E lo annuncio perché ormai è ufficiale, per cui posso dare là questa notizia, e anche lì purtroppo ci siamo sempre noi due anche lì perché purtroppo è bello, significativo. Vuol dire, siete capaci di esplorare tante idee, sviluppare tante idee. Questa è una, questo progetto delle Ninna Nanna è un'altra, e sì, poi le vie del Signore, come si dice, sono infinite, quindi non ci sono problemi. Andiamo con un altro pezzo del disco, cosa dici Massimo? Sì, direi di sì. Facciamo che traccia hai scelto adesso? La quarta, che è La Valse des Égarés, che merita, devo dirlo, parliamo un momentino di questo pezzo, sì. Infatti prima o dopo decidiamo? No, parliamo un po' prima adesso. In realtà questo è un valz che ho scritto io, sì, che Diego come al solito ha dato il suo preziosissimo contributo, e l'idea in realtà è un po' cicciona, un po' anche del testo, in realtà è il valzer dei perplessi, la traduzione diciamo letterale, che si rifà a un'opera di un filosofo medievale che è Maimoide, che è La guida dei perplessi, era in realtà, che è questo incontro tra la Bibbia e Aristotele. Si parla del Medioevo, quindi questo fede e ragione, e quindi c'è un po' questa confusione di questi tempi, un po' il discorso che facevo poco fa, che ritorna un po' nei brani. Questo è un valzer lento, molto semplice, insomma, a noi piace. Insomma. Anche a me piace, lo sentiamo adesso. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito eccoci questo pezzo qua. Bello. Io, la Valse des Cigarettes. Esatto. Io a microfono spento ho detto un po' decadente, ma nel senso positivo del termine. No, beh, immagino, certo. Sì, no, ci piaceva questa atmosfera, perché poi in realtà l'obiettivo di questo nostro progetto, che poi è un obiettivo presuntuoso per certi versi, è di cercare di che sei possa arrivato, essere appetibile. È arrivato. Sì, no, beh, ma io speravo che non arrivasse, perché volevo avere il mio momento. Vi trovavate bene così. No, non ho ancora iniziato, però stavo dicendo una cosa che sicuramente sarai d'accordo con me. Uno degli obiettivi, che poi ripeto, un obiettivo estremamente presuntuoso, era quello di cercare di realizzare un progetto che fosse appetibile anche alla bocca meno esperta. Insomma, non volevamo fare una roba per addetti ai lavori, un po' di nicchia, vuoi dire. Cioè, l'idea era quella di farlo il meno di nicchia possibile, insomma, per fare in modo che fosse, ne so, uno dipinge casa, si mette il cappellino di carta, se lo ascolta, non deve essere necessariamente un addetto ai lavori oppure un appassionato come puoi essere tu, magari ce ne fossero tanti come te. Per cui niente, ci sono appunto anche delle atmosfere volutamente semplici, appetibili, e non per questo meno belle di altre, insomma, poi ripeto, dipende dai gusti. Adesso direi che è arrivato il momento di far sentire la canzone di Marinella, insomma, che è questo lavoro di cui abbiamo già accennato più di una volta, questo brano a cui entrambi siamo molto affezionati. Mi fa piacere che Diego lo ami così come lo amo io, e ci siamo un po' divertiti a renderlo, abbiamo fatto appunto in 5/4, poi c'è un bridge particolare, insomma, poi adesso lo sentirete. Se la sentiamo, la canzone di Marinella, traccia numero 5, ok. No, traccia no. Numero 7. Ah, tutto, traccia numero 7, ho sbagliato io, scusatemi, c'è un momento, bisogna, però un secondo, visto che prima cerchiamo una traccia, la canzone di Marinella, di De André, nel vostro modo di suonare, oltre alla canzone di Marinella, che cosa c'è? Beh, che si può, secondo te, riprendere, tra virgolette? Di De André c'è tanto, nel senso che c'è la Francia, per esempio. C'è la Francia, ecco, esatto. C'è la Francia, che la Francia è l'Italia degli anni 50, dei primi anni 60, insomma, c'è la nostra storia. Sembra un paradosso dire che la Francia è la nostra storia, però in realtà nella storia popular nostrana c'è essenzialmente c'è la Francia e l'America. Il Nord America, poi arriva anche il Sud America, però certo. Sto parlando degli anni 50, 60. Poi vabbè, c'è la nostra tradizione napoletana, italiana, folk, che è straordinaria, però nella nostra canzone d'autore c'è Brassens, ci sono Brassens, Brel, Trenet, vabbè, Ferré, insomma, sì, certamente. E De André nasce così. Sì, sono d'accordo con te. Lui dice in un'intervista una cosa, tra l'altro, molto bella, e dice che probabilmente se non ci fosse stato Brassens sarei stato comunque un musicista, però non sarei stato l'uomo che sono oggi. Cioè, Brassens è stato, oltre a essere un grandissimo artista, che poi peraltro pochi sanno che lui è molto italiano, perché la madre era italiana, infatti c'è molta tarantella nelle sue cose, era un metrapensiero, i suoi testi sono straordinari, hanno iniziato tutta una scuola da De André, da Endrigo, da, poi, per non parlare di Svampa e di tanti altri, insomma. Esattamente. Allora, la canzone Marinella, la Francia, tra l'altro, scusa, ti ho interrotto, la Francia è anche nel brano che abbiamo appena sentito. Certo. Non a caso il titolo in francese. Quindi la canzone Marinella, di Vissuto e Corretta, da Corda e Martelli, ok. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, diretta rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere con la canzone di Marinella, bella la canzone di Marinella, bello De André, abbiamo parlato a lungo di De André in questo momento, abbiamo parlato delle sue origini francesi, ma non solo De André, il cantautorato nasce anche con Tenco, nasce con Bindi, tutto proviene dalla Francia, però non c'è niente da fare. Cosa dici Massimo, cosa dici Diego? Tutto proviene dalla Francia. Sì, quegli anni lì sicuramente. Sì, poi no, io che ho avuto la fortuna proprio, e questo devo dire che è stato Gian Gilberto proprio portarmi dentro. È proprio quello, possiamo arrivare a lui? Esatto. No, beh, io ho avuto proprio l'incontro con la Francia tramite lui, perché ho assolutamente ignorantissimo su quello, se non proprio per le cose basilari che conosci e che senti. Però ho fatto questo lavoro, ho fatto due lavori grossi con lui sui francesi. Il primo è stato proprio questo progetto univoco su Boris Vian, e il secondo, qualche anno dopo, è stato sul trittico Vian Ferregensburg, no? E lì veramente ho scoperto, per esempio, per me, che ho una derivazione di ordine jazzistico, ho sentito per esempio anche quanto loro come compositori hanno raccolto dal jazz, no? C'è veramente un'interazione tra il linguaggio e la composizione jazzistica e la melodia invece più prettamente, non so, mi viene da dire francese, non mi viene un termine migliore, ma credo che sia poi quello fondamentalmente, che ha creato, secondo me, è proprio una scuola quella, cioè quando... è come se ci fossero davvero delle radici molto, molto grosse in questi autori, insomma. Certo, tu hai citato Gainsbourg, c'è stato un grande ritorno di Gainsbourg anche in Italia finalmente, perché tutti se lo ricordano per un famoso pezzo. Sì, certo. Quello famoso pezzo, censurato. Anche se poi all'epoca era censurato. Sì, sì. Però Gainsbourg non è quello, Gainsbourg ha fatto cose meravigliose, soprattutto è molto amato negli Stati Uniti, sembra paradossale, ma è così, è molto seguito. E poi c'è questa cosa qua straordinaria che la Francia ci ha insegnato, che è anche la dimensione teatrale della musica. Certo. Che è una roba che di fatto hanno inventato loro. Pensiamo a Brel e pensiamo al nostro straordinario Giorgio Gaber. Esattamente. Che era francese, forse non è che fosse stato francese, è francese, non so, di tendenza, forse un collegamento. Beh, Luporini, che è il suo grande sodale, sosteneva che De André fosse il Brassen italiano e lui fosse il Brel italiano. Ecco, insomma. Ecco, forse ha ragione lui, esattamente. Anche se Brel mi pare fosse belga. Tra l'altro. Okay. Però questo non vuol dire assolutamente nulla. Ok, siamo pronti per uno dei pezzi più particolari di Lucio. Molto particolari. Rivissuto e corretto da molti anni fa, dalla Formula 3, avevamo parlato a microfono spenti, con una stratosferica disattrazione delle corde da parte di Emilio di Radius, che era il chitarrista principe della Formula 3. La versione fatta da Diego e da Massimo è una versione loro, praticamente l'allargano, la costruiscono. Guarda, questa siccome mi ricordo esattamente il modo in cui è nata, no? Perché eravamo a casa, eravamo a casa mia, e forse adesso non ricordo esattamente, ma credo che avessimo proprio appena finito tipo di mettere le mani sulla canzone di Marinella. E ci chiedevamo, insomma, c'era un po' una cosa del dire, mettiamo un'altra cover, non la mettiamo, e io avevo in casa una raccolta di brani di Battisti, insomma. Sì. E abbiamo messo su la canzone di... abbiamo messo su questa, non è Francesca, e mi ricordo proprio la scena esattamente, che io mi sono avvicinato al pianoforte e ho fatto quello che poi è diventato il tema, il motivo con cui... Da qui abbiamo cominciato a suonarla, fino a che poi, vabbè, abbiamo cambiato alcuni accordi, finché poi abbiamo elaborato, soprattutto come sentirete dopo, c'è una sorta di modulazioni che si sovrappongono l'una con l'altra, non facendo mai chiudere la fase musicale, sostanzialmente. E Massimo, quando gli piace una cosa, lo vedi subito, perché mi ha guardato con gli occhi. Si è illuminato. Allora ho detto, allora la faremo sicuramente, e l'abbiamo arrangiata. Poi di fatto c'è anche da dire che la nostra generazione, in particolare la mia, di Diego, siamo quasi coetanei, è che noi siamo battistiani, certo, per forza. Battistiani mogol, non battistiani, l'altro versante. Proprio per un fatto generazionale. Certo, e certo. Quindi è una dichiarazione d'amore verso questo straordinario autore che ci manca molto, devo dire. Un flash, vorrei solo ricordare che la prima versione di Non è Francesca è stata cantata dai Balordi. Che era questo un non lo sapevo. Dei Balordi, che era un gruppo che ha ripreso il pezzo, chiaramente era di Battisti, dei Balordi, poi è andato Lucio e sono andati. Forse i Balordi due, allora. No, assolutamente. I Balordi siamo sicuri. Ok, benissimo, Non è Francesco. Ci proviamo ancora senza pedale, eh? Vai, vai. Thank you. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diego è un po' sudato, eh? Leggermente. Ma sudare è bello perché c'è adrenalina, cosa dici? Assolutamente. Benissimo. Nel caso, versione meravigliosa, ho notato questo in questo pezzo. Tu coloravi col pianoforte e lasciavi a Massimo la possibilità di allargarsi, di sperimentare, poi ritornavi sul selciato. Sì, ecco, è una cosa. Dimmi. No, scusami, Diego. No, perché è molto. Cioè, a me piace molto questa cosa che Massimo. Cioè, mi piace molto che si senta ogni. Che sia possibile percepire ogni singola suono che fa ogni strumento. Siccome questo abbinamento non è dei più semplici, adesso certo. Non perché noi siamo particolarmente più intelligenti degli altri, forse siamo più spregiudicati, no? Però l'abbinamento pianoforte-chitarra non è che sia uno degli abbinamenti più semplici, perché siamo due strumenti armonici, si possono fare tante cose, è facilissimo cavalcarsi l'uno sull'altro. Sì, no? E noi, io e lui, abbiamo sempre avuto fin dall'inizio proprio questo feeling, no? È come quando c'è quello che ti serve l'assist e il centravanti che fa gol. Insomma, lì è proprio una questione di pelle e di feeling naturale, non è tanto una questione di studio o di bravura, no? Per cui riusciamo molto a far respirare la musica, lasciando che l'altro occupi gli spazi che siano giusti. Dicendo in termini crudi, non vi pestate i piedi. Esattamente, ecco, detto così. Esattamente. Ma è stato bravissimo, perché volevo più o meno dire la stessa cosa. Sì, no, dicevo, volevo solo aggiungere una cosa che voi peraltro lei ha detto in altri termini, che è proprio è stata una bella sfida per noi, perché in realtà si rischia di giocare tutti in centrocampo. Esatto, quello volevo arrivare a fare calcistica. Per cui è difficile, anche perché il mio modo di suonare, cioè con un piano, in genere il chitarrista finisce per fare il melodista, per suonare la chitarra come se fosse un sassofono. Invece la nostra sfida era proprio quella di suonare il proprio strumento con le proprie caratteristiche, cercando, come dicevi tu, di non calpestarci i piedi. E ci sono, vabbè, non è carino che ce lo diciamo noi, insomma, ci sono delle soluzioni nel disco, secondo me, molto, e poi tra l'altro molto istintive, istintive proprio dovuto a all'affinità che esiste, insomma, tra di noi, sì, come musicisti. Ci sono usciti subito così, cioè non c'è stato un gran lavoro per dire occhio lì non suonare, perché cioè è stato molto immediato, e per quello diciamo è stata la cosa che ha dato poi noi già eravamo convinti di farlo. Quando abbiamo visto come uscivano i brani, abbiamo detto ok, facciamo. Buona la prima, insomma, praticamente. Sì. Sì, sì, è un disco praticamente realizzato così. Sì. È un live praticamente. Come un live. Come un live, esatto, sì. Giustamente. E si sente. Chiaramente adesso lo sviluppiamo dal vivo, però dal disco si sente questa propensione al live. Cioè non ci sono difficoltà, va via, liscio come doveva andare. Grazie. Secondo me io l'ho trovato così. Grazie. Ok, proseguiamo allora nell'ascolto dell'album. Cosa hai scelto? C'è la traccia 8. La traccia 8 che si intitola A volo d'ombrello, che l'avevo già accennato. Sì, ma adesso ne parliamo leggermente di più. Sì, è un brano mio, praticamente sono stato ispirato. Esiste una favola tedesca che parla di un bambino che a un certo punto apre l'ombrello e va in cielo. Esiste una splendida poesia che si ispira a questa favola di Hans Esberger, che parla, praticamente utilizza questa metafora come un senso di libertà. Come dicevo, c'è un po' questo tema in tutto il disco, la libertà, la perplessità legata a questi tempi, il fatto di non sapere bene come collocarsi, come vivere. Quindi prima parlavamo del valzer dei perplessi, qua invece c'è questo senso di volare via da quello che sta accadendo intorno a noi. È un brano mio questo, e niente, ci piace, ci è piaciuto. Diego, ha fatto un lavoro egregio qua, straordinario. Se posso dire una cosa, devo fare i complimenti a Massimo per il brano, ma soprattutto perché ha passato 3 ore da Milano a Padova per riuscire a dire Zesberger senza impastarsi. Sì, infatti, e ce l'ha fatta, cioè incredibile. Io non ci avrei scommesso neanche un euro. È stato bravo, è stato bravissimo. Cioè io avevo il mio, sarei giocato la carta, no, l'ho un po' strascicata, non è che proprio l'abbia detto come avesse lingua madre, esatto, fantastico. Ok, sentiamo. Rock Wave.

Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org stasera con Diego e Massimo, Massimo Germini e Diego Baiardi e il loro progetto Corde e Metalli. Martelli. Cosa ho detto? Metalli. Ho sbagliato, corde e martelli, non metalli. Ma io ho detto metalli perché, perché ho visto stasera passando per un negozio di dischi, ho visto un nuovo disco di Iron Maiden. Ah, ecco, mi è venuto in mente. Hai fatto un'associazione un po' strana. Sì, sono in testa in classifica in America, in testa in classifica sì, in ma noi con gli Iron Maiden non è che c'entriamo molto. No, c'è tanto. Con tutto rispetto. Noi, noi vorremmo essere rock, siamo rockettaro. No, vorremmo essere, ma non ce la facciamo proprio come indole. Non abbiamo neanche il fisico del ruolo. Tanti. 4 anni fa, a proposito di questo, qua è venuto un gruppo metal che ha fatto un concerto di musica totalmente acustica con la chitarra. Chitarra non effettata, chitarra come te, ma totalmente acustica. Un gruppo di metal, ma metal durissimo, si è sviluppato. Grandi. Ah, bene. Quindi le vie della musica sono infinite. Assolutamente. Ritorniamo al progetto. Dopo del disco, come si può trovare questo disco vostro? Si trova su iTunes. Solo su iTunes. No, anche tutti gli altri store digitali comunque. Citiamo. Sai che non me ne ricordo. Non me ne ricordo. Cioè comunque tutti qui, ce ne sono 3 o 4 famosi, comunque insieme a iTunes gli altri più famosi sono, si può scaricare. Comunque è semplicissimo, si va sullo store di iTunes, adesso gli altri penso che funzionano alla stessa maniera. E si digita Corde e Martelli, quindi non i nostri nomi. Corde e Martelli. Sì. Corde e Martelli, e si scarica, uno lo può caricare direttamente sul suo iPod e poi farne CD, insomma. Sì, quello che si vuole. E soprattutto spargere la voce, se è soprattutto quello, spargere la voce. C'è qualche possibilità, cioè qualcosa abbiamo già detto prima, ma qualche data avete, c'è qualcosa? No, non c'è. Per adesso niente. No, ma anche perché tristemente noi, essendo entrambi dei mercenari, noi ci prestiamo. Io per esempio sono in tour con Vecchioni, sono delle serate con Caballà, quindi non è che abbiamo molto tempo. Però adesso, a parte gli scherzi, ci terremo moltissimo. Quindi anche se ci fosse un qualche appello ai promoter dell'area. Anche perché è un progetto, poi chi sentirà il disco, di fatto live si può proporre esattamente così, cioè non ci sono belletti, non ci sono artifici, siamo noi che suoniamo in questo modo, che abbiamo fatto queste cose, che ovviamente in un live ne aggiungeremo altre cose nostre, eventualmente altre cover, e poi diciamo magari qualche stupidata, quindi magari uno arriva e si dice esatto, perché siamo come Gianni Pinotto poi noi sul palco, insomma, quindi senso positivo, certo. Assolutamente positivo. Parlando di questo pezzo, a me ho avuto l'impressione positiva, chiaramente, di questo rincorrersi piacevole fra di voi nella parte finale, questo pianoforte, questa chitarra che si ricorrevano piacevolmente per arrivare alla fine del pezzo. Io l'ho sentita così. Sì, in questo ecco diciamo che può subentrare un po', diciamo, la parte jazzistica in senso più ampio del termine, no? Nel senso che chiaramente per me, dove c'è un gioco di improvvisazione, la connotazione per me diventa jazz, che non vuol dire necessariamente lo swing, no? Sì. Il jazz ormai ha una connotazione talmente ampia, talmente contaminato, no? Per cui, però diciamo ecco che se io sento qualche cosa dove c'è l'improvvisazione, io gli do una connotazione di derivazione di quel tipo, insomma. Quindi in questo io e Massimo credo che abbiamo dei punti d'incontro, no? Cioè si incontra un po' il mio territorio, che è un po' più di tradizione jazzista, se vogliamo, la sua tradizione invece più melodico, più popolare, nel senso buono del termine. Buono del termine. E lì invece ci si incontra, ci prendiamo degli spazi dove invece i nostri linguaggi quasi magicamente diventano comuni, perché comunichiamo nello stesso modo. Qualcuno ha scritto, io l'ho riportato, tu hai fatto delle improvvisazioni estreme in qualche momento, è possibile? In questo disco? No, non in questo. In genere. Allora, io non sono un jazzista di quelli che per esempio è vicino al free jazz, no? Per cui, nel senso che sono sempre molto affezionato comunque all'aspetto melodico. Adesso poi accennerò anche dopo, se vorrai, a quest'altro progetto mio di jazz, no? Certo. In cui però, per esempio, una cosa che mi è stata detta è che forse qualcun altro molto più poetista di me la prenderebbe magari non bene, però mi è stato detto: guarda, la cosa bella del tuo disco di jazz è che piace ai non jazzisti, no? Ho capito. Quindi, ma io non è che non è che lo faccio apposta, perché io, avendo suonato jazz e pop, no? E canzone d'autore, cioè sono la risultante di questi tre fattori. Per cui anche se io scrivo in un modo jazzistico, comunque è chiaro che la mia derivazione comunque è molto legata alla melodia, sì, perlomeno a come la sento sì, io. Sì, insomma. Perché si abbina piacevolmente benissimo con Massimo, che non è jazzista, però se il pop l'ha suonato, il d'autore l'ha suonato. Ma poi appunto quando si diceva una cosa assolutamente giusta, Diego, di fatto si improvvisa, quindi la differenza è solo il linguaggio in realtà, però lo spirito è quello. E poi meno male che non è di quella scuola lì, che rispetto tantissimo la scuola Free, perché altrimenti non avremmo potuto realizzare assieme un progetto del genere, perché l'obiettivo era proprio quello, che fosse sì improvvisato, sì insomma con certe caratteristiche, però fruibile, l'intento, non ancorato necessariamente, ma fruibile a determinati schemi. Non sono della scuola, e neanche Diego della scuola di quelli che si scrivono addosso, come si dice. Mi piace che quello che scrivo insomma si capisca, poi ecco, che quello è importante, più o meno piacere, quello vabbè, vada sì, perché stare sempre sul scalo più alto è un po' più difficile andare giù. Ma sono poi scuole di pensiero, io non credo che quelli che scrivono in quel modo lo facciano apposta. È un modo di essere, è la loro storia. È della storia che, cioè, secondo me non c'è molta differenza, no? Secondo me quello che è determinante nella musica è la sincerità, no? Voglio dire, Ornette Coleman, credo che sia uno dei, voglio dire, e lui non credo che sia semplice per nessuno, neanche per me, ascoltare Ornette Coleman, però se è Ornette Coleman è perché è stato profondamente serio e sincero nella sua ricerca e nella musica che scrive, no? Certo. E allora, se Free lo fa lui, ha senso. Se è chiaro, se qualsiasi cosa invece te la inventi, alla fine comunque, come dico spesso io, il pubblico non sa sempre che cosa non funziona, ma sente che qualcosa non funziona. Ecco, questa è una cosa giusta. Non ti sa spiegare, non è che ti dice hai messo la settima invece che la sesta, però che non gliene deve neanche fregare niente, però si accorge se c'è qualche cosa, sente se non c'è sincerità. Esatto, percepisce immediatamente. Qui potremmo fare proprio... citare persone, le cosiddette meteore, e quelle che poi meteore non sono, quelle che meteore non sono, quelle che rimangono, che fanno parte della storia della nostra canzone, della nostra musica, del jazz, piuttosto che sono quelli che sono sinceri. Chiaro. Poi, essenzialmente. Uno può essere anche bravo, però se si imbelletta poi risulta una meteora. La gente sente che non è sincero e non lo segue. Ma vale al contrario, no? Cioè, anche il contrario. Perché ci sono per esempio musicisti che dicono: cacchio, devo sforzarmi di scrivere semplice, no? Tra virgolette. Se però la tua, se non ce l'hai tu quella roba lì, no, non puoi essere. Io ho soltanto una regola che ho chiara da qualche anno: io non voglio, non posso, ma soprattutto non voglio essere ciò che non sono. Certo. Voglio essere la risultante di questo, e da lì partire magari per provare ad andare avanti, sperimentare, fare delle cose, ma fondamentalmente non voglio neanche mettermi a sforzarmi di cercare di fare delle cose che sono lontane da me, no? Siamo delle persone, ognuno di noi è alla ricerca, ovviamente, però siamo comunque due persone strutturate, perché abbiamo, ahimè, passato da qualche anno 40, quindi non è che possiamo metterci a fare, siamo così. Perfetto. Ci piacciamo. Se vi piacciamo, io sono d'accordo con voi. Sentiamo, per piacerci meglio, sentiamo un altro pezzo. Allora. Traccia 9. Traccia numero 9. Viaggiando controvento. Questo è, lo presento brevissimamente, è una specie di, chiamiamolo così, tributo al progressive. Ah, bello. Ognuno di noi l'ha amato in quegli anni, l'abbiamo tributato così con solo due strumenti. Bene. È un pezzo un po' lunghetto, mettetevi seduti. Tagliatelo, ma è un pezzo progressive, pezzo lunghetto. Potrei anche dire... Sì, esatto. C'è questo pezzo, va bene. Cioè, poi dico soltanto un piccolo aneddoto. Dimmi. Una volta che abbiamo... è durato tanto, anche perché ci abbiamo messo proprio tanto a montarlo. Ah, per quello. Siccome ci siamo trovati una volta che lui aveva appena pranzato. No, è quell'altro. No, perché una volta mi ha provato un pezzo che, diciamo, c'era Massimo un po' con le dita pesanti, quel giorno lì, no? E allora questo pezzo è durato veramente, l'avevamo provato 50 volte, l'unico forse. Ok. Vabbè, ho sbagliato male. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 23:51, non abbiamo finito, abbiamo ancora qualche minuto, possiamo andare avanti. E... Massimo. Traccia 10, Le Bateau Ivre. Questa è una particolarità, quella della presentezza delle dita? È quella della presentezza delle dita, che spero poi non si senta più. Ma lì la presentezza delle dita è legata proprio alla composizione. Proprio... No, non al pasto precedente, no? No, al pasto precedente che ha inciso sulle... pasto pesante, forse qualche bicchiere di vino, quello fa bene. Infatti all'inizio l'avevamo appuntata col titolo L'Ubriaco, che doveva essere sottoscritto. In realtà poi l'abbiamo resa più colta, nel senso che l'abbiamo intitolata Le Bateau Ivre, che è una poesia di Arthur Rimbaud, bellissima, che è appunto il battello ebro. Adesso io vorrei dire che, ragazzi, io vi posso assicurare che io e lui, quando lavoriamo insieme, ci divertiamo da pazzi. E questa è una componente, infatti in studio c'è una cosa che alla fine da problemi si è tramutato invece in vantaggio, perché non ci vedevamo proprio benissimo, per quindi chiamarsi fino a... però certi versi invece è stato meglio, perché siccome mentre suonavamo ci ricordavamo i momenti compositi in cui magari uno sbagliava, l'altro lo pigliava in giro, non vedendosi siamo riusciti a mantenere un po' di serietà, a realizzarlo. Esatto. Sarebbe stato un dramma. Ok, sentiamo allora. Traccia 10. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito questo pezzo bello, divertente, dà proprio l'esatta sensazione del battello, questo muoversi sui fiumi di Parigi, sì, eccetera. Bellissimo. L'intento era questo. Ricordiamo alcune cose prima di concludere. Abbiamo un pezzo da disco e poi concludiamo con il live, chiaramente. Ok. No, io dico soltanto una cosa, che allora, per chi volesse venire a trovarci, noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama proprio Corde Martelli. Potete diventare nostri fan e noi se ne saremo felicissimi. Certo. Anzi, vi mandiamo dei soldi. Direttamente. Esatto. Poi niente, io in particolare vi do un arrivederci a breve, perché so che tornerò vostro ospite tra circa un mese, perché presenterò qui da voi il mio progetto solista con di Diego Baiardi Quartet insieme ad Andrea Dulbecco, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli. È il mio primo disco da solista. Prima ero accoppiato, cioè il primo solista è stato con Massimo, però eravamo solisti. Invece in questo caso è un disco a mio nome, sono tutte composizioni originali, a parte la canzone di Marinella, visto con la grande che non volevo precisare che non è che ci siamo già separati, è un progetto non è che siamo subito assolutamente, certo. McCarthy, John Lennon, ogni tanto riusciamo anche a staccarci per A fare delle cose. E basta, adesso lascio la parola a Massimo per presentare gli ultimi due brani. Molto semplice, abbiamo ritenuto doveroso fare ognuno di noi un omaggio alla propria compagna. Quindi c'è Dulca Mara, in realtà mia compagna si chiama Mara, e Dulca Mara è questo gioco perché in realtà è il nome che si dava alla liquirizia, il nome popolare, Dulca Mara, quindi dolce, amaro. Siccome come tutte le donne è un po' dolce, un po' amara, ho intitolato così il pezzo. Invece il brano dedicato, composto ovviamente da lui, dedicato alla sua compagna che si chiama Marta, si intitola Marta. Lui ha avuto meno fantasia. Dulca Marta, se vuoi potremmo chiamarlo così. Allora, prima sì. In particolare Dulca Mara la mandiamo dal disco, è la traccia 11, l'ultima traccia, e invece Marta la eseguiamo live, sì. E ci salutiamo là, ok. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E abbiamo finito, veramente abbiamo finito, sono le 24 e 2 minuti primi. Massimo Germini e Diego Baiardi, questo progetto Corde e Martelli, continua, ma continuerà sentendo il vostro disco, però finisce con un pezzo live, ma è stato molto positivo questa cavalcata di questa quasi due ore, decisamente. Abbiamo sentito tutti i vostri pezzi, abbiamo ascoltato i pezzi live, è stato molto positivo secondo me. Grazie a te, grazie a voi per averci aspettati. Mi raccomando, Corde e Martelli. Corde e Martelli, ricordiamo questo. Un marchio e una garanzia. Ecco, esattamente. E con cosa concludiamo, Massimo? Con Marta, come dicevo prima. Benissimo. Grazie a... Grazie di Diego. Salutiamo Mara e Marta. Ovviamente, Mara e Marta. Un certamente. Grazie al nostro mitico regista Michele Tosò. Grazie Michele, bravissimo. La prossima settimana un altro appuntamento con Marco Carena, che è un musicista, un cantautore, un cabarettista. Prossima settimana. Grazie a tutti, buonanotte e sentiamo questo pezzo dal vivo. Radio Rock Wave, l'onda del rock.